espada, o me decante, orge capaló. Carperote e di sorriso, tu che passi e guardi e non lo vedi, il tuo castello, quante stanze ha, e il tuo specchio, quante brame da dove vieni e dove vai. Il tuo cappello e i tuoi dei. Alle porte della notte un mendicante fa il suo inchino innanzi a te, grandi occhi e ti saluta, tu che passi e guardi e non lo senti, il tuo cuore quante stanze ha, ed il tuo cielo quante lune, da dove vieni e dove vai. Con il tuo castello e i tuoi dei. Ed il vero della strada, un